Marco Roma dovrà dirci da dove ci manda questi messaggi. Ti prego, Marco Roma, se ci ascolti, facci sapere da dove. Presumo non da Roma, comunque ascoltiamolo. È primavera, svegliatevi bambine, alle cascine messere, aprile fai il rubacuor. Buona primavera a tutti, un bacio a tutti voi da Marco Roma. Mua, e anche noi ti baciamo, Marco Roma. Lo sapevo che era infatti, proprio, non cioè, poteva non aver lasciato un messaggio di primavera. Adesso dobbiamo scusarci con i nostri ospiti, perché dico che cazzo state a fare. Le nostre ospiti, abbiamo Anna Bellegati e Alice Quintavalli. Buonasera, benvenute. Ciao, buonasera, grazie. Buonasera. Perché vi alzo un po' il microfono, perché avete due vocine così. Ecco, i nostri. No, non c'è bisogno. Eccoci. Che ci state molto vicine, ma comunque vi si sente. Ho rimesso il background di Lucio Dalla oggi. Bello, mi piace tantissimo. A caso, cioè ce l'avevo e dunque è andato. Bellissimo, fa molto piano bar. Allora, vai di domande. Sì, dai. Allora, siamo qui con Anna e Alice, contentissime di festeggiare il primo giorno di primavera con voi, perché ci presentano e ci raccontano un progetto che parla esattamente, diciamo fatto apposta quasi per oggi che è primavera, no? Un progetto che si chiama Rifiorire. Anna, raccontaci un po' quando nasce questo progetto e un po' il tuo ruolo, il ruolo di Alice, che ha preparato delle domande su questo progetto, per cui che insomma inviteremo anche a farti, visto che siete anche amiche da tanto, avete fatto vari progetti insieme, su questo non particolarmente, non proprio insieme, però da come mi avete suggerito prima dell'inizio della trasmissione, insomma, la presenza anche di Alice è stata fondamentale per te, Anna, no? Sì, esatto. E allora, buonasera a tutti. E io sono Anna Bellegati e sono qua per raccontarvi un po' di questo progetto, di questo mio progetto particolare che si chiama Rifiorire. E Rifiorire è un progetto di terapeutica artistica che è nato da un desiderio. Dal desiderio di sostenere i caregiver familiari di malati d'Alzheimer e nel prendersi cura del proprio benessere personale. E certo, a Reggio Emilia nasce questo, esatto, progetto. Allora, questo progetto è l'origine, diciamo, dove è scoccata la scintilla è stato con un incontro con le parole di un caregiver. È nato in un'estate in Romagna. Che vogliamo salutare questo caregiver? Sì, no, posso fare l'avvocato del diavolo e chiedere, certo, e chiedere che cos'è un caregiver. Grande, ci voleva questa domanda, io non azzardavo. No, io allora, perché era ancora presto nel nostro discorso preparato. Abbiamo rotto gli schemi mettiamo un pezzo di canzone. Allora, normalmente viene identificato come caregiver colui che si prende cura di una persona, infatti caregiver è il donatore di cura, colui che si prende cura. E nello specifico proprio i caregiver familiari sono quelle persone che principalmente sono familiari, però possono essere anche amici, certo, o comunque persone che non hanno scelto nella propria vita di prendersi cura, come può fare un infermiere o un medico, ma sono persone che davanti a una condizione di malattia o disabilità, perché comunque i caregiver ce ne sono in diverse situazioni, decidono di accogliere questa situazione, certo, che gli capita e decidono di accompagnare questa persona nel decorso della sua malattia, che può essere breve, può essere lunga, può essere più o meno grave, perché anche una mamma è un caregiver, perché certo, si prende cura del, certo, suo bambino. Anche un papà. Esatto, anche un fratello, un nonno. Chiunque, esatto. Deve essere per forza familiare? Allora, persona in della questo famiglia? Caso, diciamo, familiare è più facile, sì, perché più viene facile, a contatto. Esatto, certo, perché ci sei tutti i giorni. Solitamente i caregiver e chi accudisce magari un genitore o magari hai un figlio con disabilità. Sì, cioè, sì, già è quando, più vicino. Esatto, sono le persone più vicine. Certo, che in modo spontaneo si ritrovano ad accompagnare queste una persone in difficoltà. Esatto, e sono persone che comunque non vengono pagate per farlo. No, certo, perché comunque sì. Sono persone che decidono di prendersi cura e di accompagnare. Io ho scelto proprio i caregiver di persone con Alzheimer e altre forme di demenza perché la demenza è una malattia... Certo. Comunque lunghe, sono malattie complesse. Certo. E sono malattie dove comunque ancora una cura non c'è. Certo. E sono malattie che nel corso del tempo degenerano. Proprio c'è questa perdita progressiva di quelle che sono le funzioni cognitive, quindi sono malattie che ad oggi si sa poco, fanno paura e quindi ho proprio scelto di fare luce e di dedicare la mia attenzione in questo progetto a chi di solito sta nella parte più invisibile. Certo. Quindi a chi appunto ogni giorno, quotidianamente, si prende cura di queste persone. Thank you. questa era Margaret Glaspie. Io adoro i pezzi che metti perché ogni volta sei sorprendente. Che si chiama Devotion. Bellissimo. Ha quasi superato il mio amore per Little Green. Ah, questa. Vedi? Ma sai che ho scoperto che ha 19 anni. Little Green. Veramente? Sì, spaventoso. Caspita. Sì, sì. Bravissimo. Ed è tipo al secondo EP. Vabbè, ciao. Sì. Ah. Speriamo che non si bruci in fretta come... Ma no, secondo me è una che ha già capito tutto. Che arriverà ai 91 con il suo... Esatto. 579esima milionesimo di disco. Esatto. A sorprendersi. Little Green è una cantante che mi piace un sacco, che ha messo spesso Stefano. Comunque stavamo parlando prima di questo caregiver che se possiamo... No, anzi, se possiamo dire il nome lo salutiamo. Che dici, Anna? Certo. Si chiama Roberta. Ciao Roberta. Grazie a Roberta che hai dato ad Anna questo stimolo, questa idea per cominciare un progetto. No, infatti sta cosa che una frase possa far partire un intero progetto, a me piace tantissimo. Tantissimo, tantissimo, sì, sì. Tantissimo, è proprio bello. Infatti. Esatto, e quindi ascoltando le sue parole che raccontava un po', appunto, che lei si accudiva della sua mamma e diceva: quando mi chiamavano mi chiedevano come lei stesse, ma nessuno chiedeva a me come io stessi, che certo. È una condizione molto, molto frequente, certo. E quindi diceva: io ho dedicato a lei il fiore dei miei anni e mentre il tempo passava io sfiorivo. Ok. E quindi su queste parole che mi hanno toccato profondamente è da dove nasce Rifiorire, quindi certo. Da quest'idea di dedicare un momento a queste figure, a questi familiari, in cui rifiorire metaforicamente, quindi tramite un momento di incontro con l'arte, tramite un fare arte, e loro potessero dedicarsi un momento per sé, ritagliarsi un momento all'interno della quotidianità, certo, per dedicarsi a loro stessi, per certo. Ricentrarsi e per ritornare al centro, seppur temporaneamente, della loro vita, di questo percorso. Esatto. Meraviglioso. E questo si è declinato nella provincia di Reggio. Esatto. Questo a partire progetto, da 2 anni fa? No, questo progetto è partito il 21 settembre 2021 in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer. Ok, anche lì era un solstizio, no? 21 settembre. È sempre il 21, sì. È vero? Sì, sì. Sempre il sì. 21. Sì, sì. Questo 21 o ci giochiamo all'otto o ci sta consigliando qualcosa. Esatto. Sì. E poi è bello specificare il fatto che Anna sia qui oggi, che è il 21, a parlare di Rifiorire, perché ha concluso una parte del progetto che poi si riaprirà in un certo senso in un evento che appunto aprirà questo sabato. Esatto, sabato a Reggio Emilia ci sarà l'inaugurazione della mostra alle ore 21. No, alle ore 10:30 del mattino. Okay. Sabato, wow. Alle 10:30. Possiamo fare 10:21, giusto per mettere sul 21 anche lì, cioè 9 minuti prima possiamo cominciare, sì. Qualcosa, sì. Giusto per sì. Omaggiare. Quindi sabato cos'è, il 26 sabato 26 alle ore 10:30 presso la Galleria Parmigiani di Reggio Emilia, che è proprio in centro, e ci sarà appunto l'inaugurazione di questa mostra che si chiama Rifiorire, prendersi cura della cura, quindi prende il nome dal progetto, certo. E verrà esposta l'opera condivisa e realizzata durante e il progetto di Rifiorire, che si è sviluppato all'interno dei caffè incontro che AIMA, che è l'Associazione Italiana Malattie d'Alzheimer, ha sulla provincia di Reggio Emilia. Perfetto, quindi adesso diciamo che un po' le componenti, i puzzle di questo progetto si sono fatti un pochino più organizzate. Allora c'è AIMA che è all'interno di questo progetto. Esatto. L'associazione che ti ha messo in contatto con i caregiver. Esatto, perché AIMA appunto diciamo si prende cura sia dei caregiver sia delle persone con demenza. Perfetto. E quindi all'interno dei vari progetti che loro hanno ci sono questi caffè incontro, cioè si chiama proprio caffè incontro, che sono questi spazi. Eccolo, questo siamo arrivati al nucleo del progetto, il caffè incontro. Che sono questi spazi dove appunto il familiare insieme al caregiver vanno, si ritrovano, sono momenti di condivisione, momenti in cui si fanno svariate attività, e proprio all'interno di questo contesto mi sono andata a inserire io con il mio progetto, che ha appunto toccato tutti i vari caffè che Aymar Reggio Emilia ha sulle varie province. E sono sei, sì, in sei, cioè Reggio Emilia, Bagnolo, Correggio, Montecavolo, Poviglio e Reggiolo, quindi proprio sparpagliati in tutta la provincia, certo, di Reggio Emilia. E sono dei caffè già adibiti a, sì, diciamo, regalare delle occasioni di incontro, di, sì, dialogo, esatto, di attività polifunzionale. Esatto, sono spazi solitamente dentro circoli o centri sociali che dove appunto c'è questo momento di ritrovo, di condivisione, di anche spazi dove si fa qualcosa, come, certo, nel caso appunto questi progetti. Certo. E tu che genere di proposta hai portato per i caffè incontro? Io ho portato questo progetto che appunto è partito da queste parole, e sempre con quest'idea di questa nuova primavera, di questo rifiorire, ho proposto ai vari caregiver all'interno dei caffè. Che erano quanti? Una decina di caregiver per caffè? Allora, diciamo che variavano. Ogni, okay, giorno, cioè ogni incontro, ho fatto 3 incontri per ogni caffè, variavano. A volte erano fino a 20, altre, certo, volte erano 5. Dipendeva dal di giorno, qualsiasi età, erano, di qualsiasi, esatto, di qualsiasi, diciamo, età, di qualsiasi fragilità si stessero occupando. Esatto, loro accompagnavano il loro caro lì, e mentre loro facevano questa attività, il loro caro era accompagnato appunto dai volontari, dalle psicologhe di Aima, e facevano altre attività. Certo, certo. Tu ti occupavi di loro. Esatto. E Aima si occupava delle persone con fragilità. Esatto. Ma Alice ti ha fatto questa domanda perché io so dove vuole arrivare. Vuole arrivare a una domanda più specifica, vero, sì, Alice? Sì, volevo chiedere ad Anna se ci parlava delle specificità del suo incontro e anche di come si rapportano al tuo modo di lavorare, al tuo modo di progettare. E lo so che lo sai. Allora, questo progetto è appunto è legato alla mia tesi di laurea. È un, certo, progetto, appunto, è il mio progetto di tesi che presenterò, e fa parte appunto di questo biennio specialistico di terapeutica artistica che è all'Accademia di Belle Arti di Brera. Quindi tutto il progetto è stato impostato secondo questo approccio. Certo. Quindi con un approccio fenomenologico che ha diverse cose da rispettare, tra cui appunto il fatto che all'interno di un laboratorio di terapeutica artistica alla fine sia la realizzazione di quest'opera condivisa. Ecco, che appunto il parolone, l'opera condivisa. Esatto, che è appunto l'obiettivo che, diciamo, si tende a raggiungere, esatto, insieme. Perché appunto io porto questo progetto e ovviamente pensato. Porti una traccia, dici, esatto, io sono qua per prendermi cura di voi. Esatto, io ho in mente questa cosa per questi motivi. Insieme andremo a costruire e realizzare quest'opera. Certo. Perché comunque il mio ruolo all'interno della proposta è di un accompagnare. Certo. Quindi io non dai degli strumenti, magari. Esatto, io fornisci gli strumenti, li accompagno, magari li aiuto negli inciampi del fare, però io li accompagno. Tipo verso carta, penne, cosa hai portato di strumenti proprio? Oltre che le idee, ovviamente. Allora, argilla, pongo. Allora, e questa è una domanda fondamentale, direi, soprattutto per quanto riguarda il rapporto della terapeutica con i materiali. Esatto, perché la terapeutica artistica si pone le sue fondamenta e comunque su occhio che devo fare una specifica, però terapeutica artistica non è arte terapia, non per arte i nostri terapia ascoltatori, perché no, infatti i nostri ascoltatori, fra l'altro ne ho uno che mi scrive: io sono una persona con fragilità, è Oscar, ditele che eccolo, ditele che mi curino. Fra la 333 180 94 94, se persone anche non con fragilità come Oscar Moroni, che salutiamo, se volete intervenire potete farlo con Messenger, WhatsApp e quant'altro. Grande, grande. Siamo quasi alla pubblicità delle sette e mezza. Sette e mezza. Cosa faccio? La parto adesso? Partila. La partolo. Stai ascoltando Coxo Spaziali. Per dare nuovo slancio. Per termierepertebo.it. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Hai capito? Grande Cesare, ciao Cesare, ciao Cesare. Ci starà ascoltando di sicuro. Questo è un momento di saluti, un attimo onnipresenti. Allora, salutiamo chi si è appena connesso. Sì, volevo salutare Deborah e il buon Paolo che di corsa hanno cercato di trovare, seguirci. Esatto. Non avevo messo il link stavolta. Esatto, di trovare il link e poi anche Beatrice che in questo momento non ci sta ascoltando, ma dopo appena finisce di lavorare ascolterà la puntata. Esatto. Perché ricordiamo che si può scaricare e ascoltare tutte le puntate su www.coxospaziale.blogspot.com. Quindi esatto, facilmente quindi trovabile. Esatto, sì, basta scrivere Coxo Spaziale su Google e arriva e si trova, perfetto. E poi anche tutti quelli dell'Accademia, tutti quelli delle province, tutti quelli dei caffè incontro, sì, tutti i caregiver, tutti anche gli assistiti dei caregiver saluterei, io coglierei esatto l'occasione veramente per ma dunque tutti questi caregiver sono tutti caregiver personali, cioè familiari, sì. Sì. Cioè non sono persone pagate per fare assolutamente caregiver. No. Sai che questa cosa non l'avevo capita pur avendoti finanziato nel non l'abbiamo ancora raccontato esatto, il fatto che il crowdfunding adesso per questo progetto meraviglioso sì è ancora in vita, è ancora per cui potete ancora finanziarlo. Dove devono andare? Su GoFundMe? Sì, bisogna andare su GoFundMe, mm-hmm. Poi dopo nel tasto... Com'è? GoFund? No, GoFundMe. E dopo... domani su www.coxospaziale.blogspot.com mettiamo il link direttamente. E siccome stiamo per raggiungere il budget finale... Allora accorriamo a finanziare tutti quanti. No, infatti, manca pochissimo. Manca pochissimo, ragazzi, tutti quanti subito a dare il loro contributo perché questa mostra si realizzi. Il contributo è per la realizzazione della mostra che si terrà sabato, giusto? Sì, la mostra inaugurerà sabato, esatto, sabato mattina alle 10:30. No, alle 10:21. Alle 10:21, è vero. Alle 10:21 per gli ascoltatori di Coxo Spaziale. Esatto, grande. Esatto. E... dicevi quindi che sarà l'esposizione di tutte le opere condivise e i materiali di cui ci sarà stavi l'opera prima. Verrà esposta l'opera condivisa che è una soltanto è per una, i sei, esatto, per è i sei una caffè unica e i 18 incontri, esatto, e tutti i partecipanti sui vari caffè hanno contribuito a realizzare un'opera condivisa, un'opera che comunque racconta di tutti. Tutto il progetto è un'opera ma che per parla tutti. Di tutti per tutte esatto le persone che cos'è sono cos'è sto casino che fanno a... fuori dalla porta sono, per ricordarci che le presenteremo dopo anche per ricordarci che c'è sta cosa qua, l'angolo della menzione. Adesso Mia ti devo dire una cosa, ti ho appena spedito le menzioni perché sono tante e le dobbiamo leggere entrambe. Perfetto, tira fuori, ce le ho immediatamente tira fuori in mano, il cellulare, guardami come sono guarda, pronta. Te l'ho mandato per email, però comincio io naturalmente che perché mercoledì 23 marzo alle ore 18 c'è l'incontro con Flavio Favelli per la presentazione del libro Bologna la Rossa, pubblicato da Corraini. Ne parlano con l'autore Mauro Felicori e Antonio Grulli. E questa è alla libreria mercoledì alle 18 alla libreria Coop Ambasciatori di via Orefici 19. Tocca a te, e ce l'hai fatta? Grande. Certo, è mercoledì 23 marzo alle ore 18:30 vediamo anche un drawing Women Out of the Shadows, mm-hmm. Inaugurazione mostra dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e in collaborazione con un sacco di altre, oh madonna, L'École Supérieure des Arts et Média L'Hochschule für Angewandte. Ah, il tedesco Hamburg, lo sai meglio. La Massana Art and Design School di Barcellona. Poi Latvijska Mekas Accademia di Riga, Schenker esatto College of Arts, Engineering and Design di Tel Aviv, Kyoto City University of Arts in collaborazione con l'Alliance Française fino al 29 aprile. E l'inaugurazione è alle 18.30, abbiamo detto. Di mercoledì 23 marzo, questo all'Istituto di Cultura Germanica, in via De Marchi 4 a Bologna. Poi abbiamo invece il Museo Spazio Pubblico, che presenta un ciclo di incontri, terapia urbana, sedute di autoanalisi educativa sulla cultura dello spazio pubblico. Questo è il 24 marzo, dunque giovedì, alle ore 18, il primo incontro, introduzione alla terapia urbana. Luisa Bravo, la fondatrice e curatrice di Museo Spazio Pubblico, che appunto fa il primo incontro. Il Museo Spazio Pubblico, per chi non lo sapesse, è in via Eugenio Curiel 13D a Bologna. Sabato 26 alle ore 10:21 alla Galleria Parmigiani di Reggio Emilia, rifiorire, prendersi cura della cura di cui stavamo parlando poc'anzi. Poc'anzi, per cui dopo continueremo a parlarne. E sempre sabato invece, per chi torna da Reggio Emilia, abbiamo alle 16 Luigi Mainolfi con la personale chiamata Etna. La ricerca di Luigi Mainolfi da oltre 4 decenni traccia un percorso delineando una riflessione sui fondamenti e le complessità della pratica scultorea, sulle sue implicazioni profonde e la sua urgenza. Questo è alla Galleria De Foscherari, che sta su fino al 30 giugno 2022, in via Castiglione 2B a Bologna. Fantastico. Ne posso aggiungere una in corsa? Ne puoi aggiungere? Cioè, perché tu non ce l'hai, Nanni Menetti? No, non ce l'avevo. Beh, allora non te l'ho copiato tutto. Ce n'è un altro, invece, sempre sabato alle 17, Nanni Menetti, Criografie, mostra personale a cura di Sandro Malassini, e questa è la Sala della Musica, municipio di Lana Mocogno, in provincia di Modena, in via 24 maggio, e trovate tutto su www.coxospaziale.blogspot.com. Però ne stai aggiungendo un'altra in corsa. Ne aggiungo una in corsa per io domani. Io la scrivo intanto. Per domani, martedì, okay. 22 marzo, ci sarà la presentazione del libro di Otto Gabos, Ridi Romeo, che fra l'altro sarà il nostro ospite della 400, vedi? Alle ore 20 presso la libreria per ragazzi Giannino Stoppani in via Rezzoli 1F. Okay. La presentazione del libro con Otto Gabos e Silvana Sola. Come fa parte della libro? Ridi Romeo. Ridi Romeo, ok. Ridi Romeo, Ridi virgola Romeo. Di cui parleremo appunto quando lunedì prossimo. Ah, fantastico. Domani alle? Domani alle ore 20. Alla Giannino Stoppani in Piazza Maggiore. Esattamente. Yeah. Super. Ok, possiamo ritornare alla nostra opera condivisa e i materiali scelti per questa grande opera. Infatti, fatta da quante persone? Più di 50, immagino, alla fine. Sì, un'ottantina di caregiver. Wow. Più di 80 caregiver hanno partecipato. E che cosa hanno fatto? Si può spoilerare? Allora, si può spoilerare, sì, perché qualcosa, appunto, se qualcuno è interessato può trovarlo sulla pagina Instagram di rifiorire.re. Mm-hmm. Dove lì è stato un po' un diario che ha raccontato quello che abbiamo fatto durante il progetto. Certo. E quello che è stato fatto è stato realizzare dei fiori mm-hmm. in tulle. E la scelta dei materiali non è stata casuale. Diciamo che è stato proprio scelto il materiale con cui dar forma a questo progetto. Certo. Perché comunque uno dei capisaldi della terapeutica è la capacità di sapere scegliere i materiali giusti per l'utenza giusta, perché ogni materiale con le sue gestualità porta con sé tutta una serie di metafore. Certo. E tutta una narrazione, un racconto. Adesso faccio io l'avvocato del diavolo con questa precisazione che mi fai. Ma come si fa a riassumere qual è l'utenza giusta, quando a teorizzare un'utenza giusta, quando magari per differenti persone un singolo materiale può avere differenti declinazioni metaforiche o semantiche o semplicemente sì, anche sì, emozionali? Quello diciamo che tu parti con un'idea. L'idea, perché ovviamente tu scegli quello che secondo te è il materiale più adatto a realizzare l'esperienza che proponi. Certo. Poi, essendo un percorso che si fa insieme, un percorso condiviso, c'è anche il fatto che magari tu parti con un'idea e in corso d'opera cambi. Certo. E quello che tu pensi, ma come è stato anche durante il progetto, quello che tu scegli, il motivo per cui tu scegli un materiale, perché a te dà una suggestione, certo, a un altro ne dà da un'altra suggestione, però quello che dà sono sempre emozioni. Certo. E sempre un percorso comunque trasformativo, perché tu la materia la tocchi, la certo, senti, ti dà certo delle suggestioni, ti evoca delle sensazioni, e quindi questo in te provoca un qualcosa, cioè certo, risvegliare determinate, determinati diciamo collegamenti, esatto, emotivi, sensazioni, che, quello sì, che sì, uno, quello che uno diciamo ha dentro, diciamo, esatto, va a tradurre o veicolare, esatto, esatto. E tu hai scelto? Io ho scelto il tool e il filo. Perfetto, che a te stessa comunicavano qualcosa in particolare? Io ho scelto il tool e il filo perché mi sembravano i materiali che metaforicamente raccontassero un po' questa relazione, che è quella del caregiver con il proprio caro, perché il tool è un materiale che non mantiene la memoria della mano che lo tocca, perché certo, il tool tu lo stringi, ma se poi lo molli lui ritorna come era prima, okay, quindi è un materiale che scappa, okay, che non ha memoria, okay, e il filo si va a inserire all'interno, all'interno questi di, questi, di questo materiale che è pieno di buchi, di spazi, spazi certo, che vanno a riempire, certo, come un po', cioè a me il tool ha ricordato molto l'Alzheimer, ok, e il caregiver, il filo, questo filo che va a riempire i vuoti, va a dare forma a qualcosa che forma non ha, lo va certo, a contenere, ma lo va anche a impreziosire perché va a colmare i vuoti e a riempire di sfumature, di disegni, di trame, certo, questo, certo, come di questo spazio, certo. E quindi ci sarà un tool di che grandezza? Ci sarà, ci sarà questa opera composta da oltre 380 fiori. Caspita. Che hanno realizzato, sì, perché ogni fiore, sì, okay, è un racconto, è un racconto, okay, che ci parla di gesti e di tempi della cura. Certo. Se ognuno di, ognuno di questi fiori potesse parlare, racconterebbe la storia della, anche della relazione tra caregiver, della relazione, della giornata, di tante cose, sono come certo, tante storie, e anche il modo in cui sono tutti fiori uno diverso dall'altro, ok, e di una grandezza mista, mista, esatto, perché singoli, comunque il contesto era lo stesso, gli strumenti erano quelli, poi ognuno ha dato adito alla sua creatività, alla sua, a quello che sentivi in quel momento, certo, per realizzare questi fiori, dal più semplice, semplice inteso proprio come forma, sintetico anche, esatto, a quello più elaborato, okay, però sono tutti tutti unici, perché okay, ognuno racconta una storia, racconta dei tempi e dei sono gesti divisi della tra cura, loro, sono divisi tra loro oppure sono poi cuciti insieme anche tutti questo loro? Questo lo scoprirete alla mostra. Ok, quindi qualcosa non si spoilerà, va bene, va bene, va bene. Mercy, mercy, I've been caught lying with my darkest thought. They grab my wings, pin me to the wall. Oh, lightning, try to hold your ground, lift me. Questa è Rachel Sermanni, è una come si dice, una scozzese. Una scozzese? Sì, l'ho scoperta 2 o 3 giorni fa, grazie a una mia amica. Anche lei ha questa voce un po' che sale. Potrebbe ricordarmi Adele o dico una di quelle coxate incredibili? Potrebbe, che ne so, io non sono mica esperto di musica. Still he holds his hands out. I walked out to the river, stand and shiver in the wind. Throw stones to watch them sink into the icy blue. Let it rise about my ankles. I don't want this darkness, but the sun just falls from the sky. Oh, mercy, mercy, I've been caught. Oscar Moroni mi ha scritto che è incredibile che questo che queste ospiti le abbia chiamate io e non te. Non so se è un complimento. È un complimento. Certo. Vabbè, cioè, invitiamo sempre degli ospiti fantastici. Infatti, però evidentemente quando li invito io non gli vanno bene. Thank you. abbiamo anche il jingle che dice così, forse. Ciao Giffo. Ah, fine. Chi è? Così. È la Chiara Pergola che grande salutiamo. Chiara, ciao. Fra l'altro, Chiara, appunto, dobbiamo ancora riuscire a fare una puntata con tutti quanti. Forse la 400esima potrebbe essere simpatica. Sarebbe stupendo. Che io Chiara l'ho persa per un soffio, perché doveva venire. Io ero covidata. Esatto. No, lei è venuta e tu, esatto, eri covidata. Io ero contentissima che lei dovesse venire, e poi me la sono persa. Però vi ho ascoltato da casa. Grande. Malgrado il Covid. Esatto, E dunque siamo quasi alla fine, mancano pochi minuti alla fine della puntata, per cui cosa Alice, hai parlato poco, anche perché non c'entravi niente qui. Infatti scherzo, sono qui per casualità. Però non è vero, è un ruolo fondamentale, l'ha detto Anna prima, che insomma tu sei stata il suo bilanciere in questo progetto. È stata la sua caregiver. Esatto. In un certo senso sì, forse con uno sguardo più freddo, però sì. E da quello che ho capito da profana della terapeutica, però, è che tutti questi pezzi dell'opera condivisa narrano dell'importanza di fare rete, giusto? Esatto, di fare rete, e parlano di condivisione, rendono visibile di come l'importanza di tanti piccoli gesti possono davvero fare la differenza, cambiare, ma anche semplicemente il sostegno che anche io ho avuto in questo progetto, sostegno appunto come è stata Alice, come altre mie compagne che mi hanno sostenuto e mi hanno aiutato a fare rete e a mandare avanti questo progetto, e anche il sostegno di cui hanno bisogno i caregiver, l'importanza della condivisione, di fare rete, di rendersi conto che non sono da soli, e dell'importanza di condividere le esperienze, e anche che comunque ci sono persone che possono, come dire, provare, certo, ad aiutarli, sostenerli, fare rete, ognuno come può, a, certo, suo modo, però è importante soprattutto in momenti straordinari della vita, come può essere nella loro condizione, attivare una rete, chiedere aiuto, perché comunque c'è bisogno di sostegno. Esatto, ti sostieni quando condividi, anche prima abbiamo parlato questa opera condivisa, no? Ma esatto, anche il condividere in generale, una chiacchierata, un, esatto, momento, anche perché malgrado, cioè adesso Reggio Emilia sicuramente è uno tra i posti dove c'è più aiuto in generale, esatto, no? Per questi tipi di problemi, certo, comunque in ogni caso è un attimo sentirsi da soli con questi problemi, no? Esatto, e comunque il rischio è l'isolamento, perché infatti, comunque l'isolamento, la paura, che davanti a certe situazioni, certe malattie, comunque hai paura tu, ti vergogni, certo, e a volte davanti a certe diagnosi, cioè, sono quasi come delle condanne, e invece se tu hai paura quasi anche a parlare male della persona che assisti. Mi immagino io, se avessi una persona fragile in famiglia, sarei terrorizzata a parlarne con qualcuno, perché, esatto, mi sentirei di, non lo so, rendere pubblica una condizione estremamente intima. E magari, esatto, ci starei malissimo a non poter condividere questa cosa. Invece anche mentre realizzavo questo progetto ho incontrato tante persone che parlando hanno raccontato di trovarsi in situazioni del genere, magari il nonno, magari che anche a casa ce l'avevano anche loro, però solo se dall'altra parte trovi qualcuno che è pronto ad accogliere, certo, quello che è la tua condizione, e che non ti giudica per quello che hai, perché comunque hai paura, l'isolamento, e non va bene, perché c'è bisogno di aiutarsi a vicenda, di condividere, perché è una cosa che tu hai sperimentato, magari può aiutare anche a me. Certo. E insieme, diciamo, il peso viene un po' più diluito, distribuito, esatto, perché, certo, sono una mano lava l'altra, o tutti i vari detti che ci sono, esatto, sul fare insieme le cose, no? Esatto, solo che quando ci sei dentro e ti trovi da solo, a volte è veramente difficile chiedere aiuto, ma se non hai l'aiuto non vai avanti. E d'altra parte bisognerebbe anche sensibilizzare in generale su riconoscere chi ha bisogno di aiuto, sostenere, a volte anche un dire dai andiamo a prenderci un gelato, come stai? Certo. A volte veramente dei piccoli gesti, certo, possono cambiare la vita, sì, a tante, sì, persone. Ma dunque dopo questo progetto cosa, come hai intenzione di proseguire? Cioè come funzionerà il tuo rifiorire? Cioè è finita lì oppure cioè, cosa pensi che succederà a questo tuo progetto? Pensi che possa diventare strutturato? Allora, adesso intanto la intanto primo devi step... inaugurare, per cui so, esatto, che, so che un, la faccenda è complicata, insomma, esatto, è soprattutto laboriosa, insomma, hai lavorato, esatto, un casino per tutto questo. Più che altro adesso si vedrà anche il futuro di quest'opera, che comunque non rimarrà a me, ma tornerà appunto ad Aima. Certo. Perché è loro. Certo. E quindi dopo si vedrà un po' anche il certo, futuro di questa, di questa installazione, di quest'opera, se ci sarà qualcosa di nuovo, se diventerà itinerante. Adesso un passo alla volta, o se possa essere anche di suggerimento per insomma prendersi cura di tutti coloro che si prendono cura, esatto, no? Oppure può essere anche, come dire, integrata, può essere ampliata, può veramente io questo progetto l'ho sempre descritto comunque come un progetto che si modificava nel tempo in base alle esigenze, in base agli spazi, certo, in base a quello che era il suo fine, si adattava, si plasmava in base a dove doveva andare, si è vestito da mostra quando appunto adesso inaugurerà la mostra e quindi non so cosa ne sarà, certo, perché lo scopriremo, certo, è stato, certo, anche il fatto della mostra alla Galleria Parmegiani non era inizialmente pensato, quindi è stato proprio un passo alla volta, una trasformazione reciproca, esatto, in itinere, esatto, e per la produzione poi di dei fiori che non sfioriranno mai, no? Esatto. Bello. Questi fiori che non sfioriranno mai. Bello. Beh, è stata una bellissima serie di gesti che appunto si conclude con te, figura professionista, che diciamo doni la facoltà di essere artisti a persone che non avrebbero mai pensato di esserlo, immagino. Esatto, e infatti l'idea era dare proprio questa restituzione del progetto all'interno di uno spazio museale, proprio per permettere a queste persone che nel caso proprio del progetto sono diventati artisti perché hanno creato un'opera insieme, e ovviamente di portare la loro opera negli spazi che solitamente sono dedicati ad accogliere l'arte e ad accogliere artisti. Certo. Quindi il caregiver che non è solo caregiver, ma che diventa anche artista perché ha fatto anche un'opera che è stata esposta in un museo. Certo. E quindi, certo, che comunque c'è tanto. Certo. E, diciamo, sono rifioriti come artisti. È tutto un omaggio alla fioritura. A me piacciono molto i fiori e mi piace anche la metafora che portano, sì, no? Bello, ci sta. Mi ricorda un po' quell'installazione di Camille Herreau sui fiori, è presente? Può un artista essere rivoluzionaria e amare i fiori, detto in inglese però, mm-hmm, il titolo, ma tu saresti più bravo di me a dirlo. Mm-hmm. E io mi slengo, che è questa artista parigina contemporanea che a me piace tantissimo, che aveva installato dei fiori facendo delle composizioni. Delle composizioni dei bouquet giapponesi, intitolandoli i libri della sua biblioteca. Non c'entra il concetto, però questi fiori in una galleria mi hanno sempre affascinata un po' come cosa. E poi hanno un odore fantastico. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Bene, io direi che qui ci dobbiamo salutare perché il nostro tempo è finito. Ah, ecco, anche perché appunto non vogliamo fare tardi per far partire la puntata, i nostri amici di Indeco Radio, le nostre fantastiche ragazze di Indeco Radio che so che sono qui, che scalpitano fuori dalla porta ad aspettare con il loro programma. Super, super, super. E dunque ringraziamo tantissimo Anna Belegati. Devi salutare qualcun altro, vedo che ti arrivano messaggini, eccetera. No, ho già salutato abbastanza. Alice, devi salutare il fidanzato? No, no, però no. Però se ti vuole comprare, se ti volesse comprare dei fiori, sì, quelli sono, ciao, sempre ben accetti. Ma penso lo abbia capito. Però visto che non saluto lui, faccio felici i miei genitori che sì, credo stiano facendo una riunione familiare in salotto per ascoltare questa puntata. Ah, grandi, che carini, che carini, che carini, li salutiamo tutti, assolutamente. E poi naturalmente io saluto te, Mia, da Ski, oggi non ce la faccio. Sì, sì, sì, sì, sì, per la 400 ce la farei. Ce la farò. E anch'io saluto te, Stefano W. Pasquini. Ok, e poi naturalmente salutiamo il nostro fantastico direttore che, malgrado la puntata sia stata spettacolare, lui continua a dire sta cosa qua. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. La sigla sono Amy and the Angels.